Diciamo che in questo tipo di crisi anche le richieste per quanto riguarda lavori di casa sono aumentate perché si cerca in questi tempi ad aggiustare le cose piuttosto che sostituirle, perché chiaramente il denaro all'interno della famiglia è quello che è e di conseguenza nel limite del possibile se un oggetto o un qualcosa lo si può aggiustare è Si chiaro cerca di che recuperarlo. esatto, È meglio una delle recuperarlo cose che che sbagliarlo. può venire in mente. Come si fa? Si va sul vostro sito? Si va sul nostro sito, c'è il numero verde oppure la Sì. mail per la richiesta di qualsiasi tipo di lavoro. Il preventivo è gratuito, l'uscita è gratuita, di conseguenza non resta altro che provare e vedere, insomma, di chiamarci e noi riusciamo e poi si vede da farci. Che cosa fa il marito in affitto? Quali sono i servizi che svolge normalmente? Dunque, noi passiamo Vabbè. dalla riparazione, non so, per esempio dalla cinghia della tapparella fino a imbiancature, verniciature e anche dei servizi che di solito sono sempre difficili da trovare se non si hanno parenti o amici che possono aiutarci, come ad esempio portare la macchina da gommista a cambiare le gomme, piuttosto che riparazioni di questo tipo, portare suocera e moglie da qualche La parte. risata è sempre dietro l'angolo, quando La si parla di risata con il marito in nome, affitto, esatto, perché eh sì. voi ci avete giocato un po' anche su questo, una bella trovata di Diciamo che sì, il marketing. nome attira l'attenzione, E poi chissà se chiaramente. non c'è anche da raccontare qualche storia, è un po' così, no? Un po' osé, no? Ma osè no, per fortuna osè non ce ne sono stati. Vabbè, lei come fa a saperlo? Mica riconosce tutti i mariti in affitto, come vanno a finire tutti questi incontri?